tempo di sport. Dalle 13, ricordo, Atalanta-Fiorentina, alle 21, Milan-Lecce, l'Italia prova a chiudere la pratica qualificazione mondiale sin da mercoledì, da dopodomani a Bari, dopo la vittoria in Montenegro. Allora, la puntata di oggi si articola innanzitutto con lo sviluppo di questo argomento, ascoltando a lungo il commissario tecnico su alcuni capitoli, sui principali, e poi nella seconda parte, allargando invece il discorso anche ad altri sport, a proposito di regole che cambiano in continuazione e della confusione che ne deriva. Credo che l'esempio della Formula 1 oggi sia il più attuale, il più probante, ma non è l'unico, ce ne sono altri. Allora, in attesa, nella seconda parte, di sviluppare questo argomento, cominciamo a sentire questi capitoli di Lippi. Il primo riguarda, per esempio, la prossima partita, per l'appunto, contro l'Irlanda. Dopo questa partita ci sono altre 4 partite, però è un'occasione importante. Se nel caso mercoledì sera fossimo bravi e capaci di battere l'Irlanda, certamente mandarla a 5 punti sarebbe una cosa importante, però comunque sia poi non sarebbe una cosa definitiva, perché ci sono ancora 12 punti a disposizione. Definitiva no, ma quasi, evidentemente, perché battere l'Irlanda è rimasta l'unica rivale del girone. Sabato si è staccata di 2 punti e quindi mandarla a 5 punti di distacco, insomma, equivarrebbe in pratica a risolvere la pratica qualificazione, anche se non in modo ancora aritmetico. L'uomo nuovo di questa nazionale è certamente Pazzini, perché già lo ha imposto il campionato, e quindi negli ultimi 2 mesi è l'uomo nuovo del campionato, soprattutto per quanto riguarda il fronte offensivo. Il fatto che sia entrato nella galleria dei non tantissimi calciatori che hanno segnato al loro debutto in nazionale, tra l'altro Pazzini dopo pochi minuti, insomma, lo proietta in una dimensione nuova, e probabilmente potrebbe anche contribuire questo a frenare la rincorsa verso Amauri, il cui caso rimane ancora aperto. Poi vi dirò che cosa ha detto stamane il presidente federale Abete. Sentiamo Lippi sul conto di Pazzini. È un tipo di giovane intanto che ha fatto parte da sempre della famiglia della nazionale, perché ha fatto tutta la trafila delle varie rappresentative, perciò nella famiglia della nazionale c'è sempre stato. È chiaro, evidente, che un giocatore per meritare la chiamata della nazionale maggiore deve fare determinate cose nel campionato di Serie A, e lui fino a qualche tempo fa lasciava intravedere di essere in grado di farle, ma non come ha fatto nell'ultimo periodo. Nell'ultimo periodo ha fatto veramente benissimo. A proposito di Amauri, vi dicevo, stamattina c'è una dichiarazione di Abete, presidente federale, che dice che ci siano giocatori con doppia cittadinanza o in attesa di riceverla che manifestano la volontà di vestire l'azzurro, penso sia motivo di soddisfazione, ma non è questa la direzione in cui andiamo. Anzi, nel rispetto dei calciatori italiani che puntano alla nazionale, abbiamo dato chiare indicazioni anche nel calcio a 5 perché si valorizzino i vivai. Si riferiva non solo ad Amauri, il cui caso appunto è ormai di lunga durata, ma anche al fatto che Taddei, il romanista, si è fatto avanti eventualmente per una maglia in nazionale. Il Montenegro è costato molto caro a Di Natale, un giocatore prezioso per la nazionale e fondamentale per l'Udinese. Ora purtroppo l'Udinese lo ha perso per la fase decisiva della stagione, non tanto per il campionato, anche per il campionato, ma soprattutto per i quarti di finale, insomma per la fase finale della Coppa UEFA. Ci sono speranze ancora di riuscire a evitare un intervento chirurgico, ma non sono molte, ed è probabile quindi che di Natale l'Udinese debba fare a meno non soltanto nel finale di questa stagione, ma anche all'inizio della prossima. Sentiamo Lippi a questo proposito. Auguriamoci, me lo auguro veramente di grande cuore, che non sia una cosa lunga, perché mi dispiacerebbe tantissimo. Però certamente mercoledì non sarà disponibile, abbiamo a sufficienza per la partita di mercoledì, e quindi non ci saranno ripescaggi, non ci saranno convocazioni supplementari, anche quest'ultima porticina di servizio da cui sarebbe potuto eventualmente rientrare Cassano non rimane ermeticamente chiusa. Farei un intervallo rispetto a queste a questo tutto Lippi, passando attraverso una traduzione di un Trapattoni di ieri, più pimpante che mai, 70 anni. Come avere 70 anni e non dimostrarli, certamente, nello spirito oltre che nel fisico, da parte di quello che ormai è il decano degli allenatori d'Europa. Sentiamo questo curioso Trapattoni. Sono sicuro che poteva avere una pressione maggiore sull'Italia. Però l'Italia non può pensare di controllare la partita, perché non è questo pareggio, hanno pareggiato anche loro con cosa, non è questo pareggio. Io analizzo che l'Italia contro Cipro poteva perdere, l'Italia con Cipro poteva perdere, quindi oggi la partita è questa, è giusto che scriviate questo. Noi, se con Cipro abbiamo vinto meritatamente, il risultato è questo: l'Italia con Cipro poteva non vincere. L'ha salvata Buffon. E vi so, Bulgaria in questa Italia? L'ha vista la partita? Cazzo, io dico che abbiamo avuto più occasioni noi che l'Italia. We had more chance than Italy. Beh, ci sarebbe un frammento finale da risentire magari a oltranza. Questa intervista potrebbe entrerà poi nella galleria di quelle celeberrime di Trapattoni. E volevo fare una domanda, scrive Roberto da Lodi: perché se un fallo come quello di Cannavaro sabato viene fatto in campionato si dice che l'arbitro è un incapace, mentre da parte di chi lo commette si parla di farlo di esperienza? Ma insomma, si tratta di etichette diverse, Roberto. Quello è un fallo d'esperienza, non lo so, cioè è un fallo da rimedio, perché l'errore non è certamente del Polo Cannavaro, l'errore è di Palombo, che un po' scivola e un po' si macchia di sufficienza, e poi Cannavaro, che è già a terra, trova il modo di alzare la gamba e stendere l'avversario. La colpa non è di nessuno se non dell'arbitro, che non espelle Cannavaro, perché questo è tecnicamente, dal punto di vista arbitrale, un errore molto grave, di cui ha beneficiato l'Italia. E Roberto Beccantini, che poi sentiremo più tardi, ripeto, su un altro argomento e su altre tematiche. Beccantini, a cui sfugge poco, ha beccato il fatto che questo Martin Atkinson, l'arbitro che ha graziato Cannavaro, è lo stesso che pochi giorni fa a San Pietroburgo non vide la parata di D'Agostino sulla linea di porta in Zenit Udinese, e in pratica consegnò la qualificazione all'Udinese, perché ricordo che sarebbe stato rigore più espulsione. Insomma, considerando che l'Udinese quella partita l'ha persa 1-0 giocando in 11 contro 11 e senza quel calcio di rigore, beh, insomma, diciamo che questo Atkinson in questi 10 giorni non di questo Atkinson certamente il calcio italiano non si può lamentare. Ancora un Lippi sulla prospettiva di questa partita barese. Beh, sotto l'aspetto psicologico, intanto la vittoria di ieri è una bella iniezione di fiducia, fatta contro un avversario che certamente non è il Brasile, chiaramente, però tutti voi, anche noi eravamo convinti che oggi, siamo convinti che oggi nel calcio non ci sono partite facili, no? da giocare, specialmente in casa degli avversari, dove c'è grande entusiasmo, dove c'è grande, in questo caso specifico, grande senso di appartenenza a questa nazionale nuova, e grande volontà di fare la partita della vita. E perciò il fatto di avere vinto rischiando molto poco e creando non tantissimo il primo tempo ma parecchio il secondo, insomma, giustificando ampiamente il risultato, è un motivo di soddisfazione che va a premiare il lavoro di una settimana e tutte le cose che diciamo di crescita, eccetera eccetera eccetera. Adesso si presenta un'opportunità importante, che è quella di, come dicevo prima, se saremo bravi, capaci e fortunati di battere l'Irlanda mercoledì, di andare a 5 punti, che sarebbe una cosa importante ma non definitiva. e perciò questo è lo spirito, no? Di provarci con tutte le nostre forze a vincere, dando la giusta considerazione all'avversario che fino adesso ha fatto molto bene, tanto da meritarsi, praticamente è l'unico antagonista che abbiamo. Potrebbe gentilmente dirci che cosa si è fatto Mike Conn? Domanda Enzo da Taranto, e non è l'unico interista curioso. Non c'è ancora traccia di prognosi, né di diagnosi né di prognosi da nessuna parte, sicché potrebbe essere una cosa da poco, così come potrebbe essere invece una cosa seria, e la dinamica lascia pensare che questa uscita anzitempo dal campo di Mike Conn, oggettivamente per un problema muscolare, perché questo era del tutto evidente, potrebbe nascondere qualcosa di serio. Il primo ascoltatore di oggi, Rodolfo, ha chiamato da Pavia. Buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, sono tifoso Viola, le volevo fare una domanda. Sì. Secondo lei è più colpa di Pazzini o della Fiorentina il fatto che a Firenze questo giocatore che sembra trasformato non abbia mai dato i risultati che sta dando a Genova? E la seconda domanda che le volevo fare, se secondo lei è giusto che Lippi si arrocchi sul silenzio sulle domande su Cassano? Bene o male è un commissario tecnico e dovrebbe rendere anche un po' conto a qualcuno delle scelte che fa, quantomeno all'opinione pubblica. La ringrazio dell'ospitalità della sua trasmissione. Dunque, colpa del... Io penso che in questi casi le responsabilità vadano ripartite. Probabilmente ci ha messo un po' del suo Pazzini e ci ha messo un po' più del suo la Fiorentina, così a spanne. Però bisognerebbe conoscere l'accaduto in maniera più approfondita, più articolata. Io noto una cosa, questo sì, in generale, insomma, che vale per Pazzini in massimo grado, ma anche per altri. Mi sembra che la Fiorentina sia molto brava a individuare i talenti e ad andare a pescarli in giro, una politica che sta facendo non da poco e soprattutto con questa nuova gestione. Mi pare poi però che la valorizzazione di questi talenti, ecco, su questo aspetto si possa discutere. Ripeto, è l'esempio principale Pazzini, perché io immagino che per un tifoso della Fiorentina sia un po' difficilino digerire di vederlo giocare e segnare a questa maniera e pensare insomma, che è stato lì per tutti questi anni. E pur avendo avuto delle fasi molto positive, non è mai stato questo Pazzini. Ora va a sapere se è un problema di fiducia e quindi il fatto che una maglia da titolare ti dà... ci sono i giocatori che la concorrenza la patiscono, ci sono quelli invece che nella concorrenza si esaltano. Può darsi che Pazzini faccia parte della prima categoria e questo potrebbe essere un aspetto, magari ce ne sono altri. Certamente non riguarda soltanto Pazzini, perché mi sembra di vedere che ci sono altri giocatori nella Fiorentina il cui talento non è in discussione. Penso a Montolivo, ma non soltanto lui, penso ai Kuzmanovic, agli Jovetic e ad altri ancora che insomma, vengono pescati con grande intuito e lungimiranza e senza badare agli investimenti, ma poi da lì alla valorizzazione mi sembra che un po' ne passi. Sull'altra parte no, io penso di essere abbastanza d'accordo con Lippi. Poi io credo che la posizione di Lippi sia... Io parlo e commento, parlo dei giocatori che ci sono e non dei giocatori che non ho convocato, anche per rispetto a quelli che ci sono. Poi, come sempre, se Lippi tutto questo lo condisse con un pizzico in più di simpatia, probabilmente sarebbe più gradevole il tutto. Ma Lippi non è mai stato un grande allenatore dei giornalisti, a differenza di Trapattoni. Trapattoni l'avete sentito, adesso comincia a perdere un po' le staffe nel finale di carriera, ma come un giorno lo etichettò Bearzot tanti anni fa, ad allenare i giornalisti finché era giovane era un discreto CT versato, CT allenatore, tecnico versato anche in quel ramo. Sentiamo ancora prima dell'intervallo Ludovico che ha chiamato da Bari, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, una domanda le vorrei fare a proposito proprio del comportamento del nostro CT. Mi sente? Non benissimo, però provi, insomma. Ecco, io volevo farle questa domanda. Non è più opportuno sull'eliminazione di Cassano, perché lui è l'allenatore, è il PT a carta bianca, ma noi siamo i tifosi, quelli che allo stadio andiamo e paghiamo. Quindi non sarebbe stato meglio spiegare un po' più della mancata comunicazione? Ludovico, mi scusi, la interrompo perché effettivamente l'audio non è un granché, la ricezione era pessima. L'ha spiegato a più riprese, mi pare, no? E quello che non ha spiegato mi sembra sia facilmente intuibile. È anche imbarazzante per uno che deve fare delle scelte, continuare a ripetere sempre le stesse cose. No, non l'ha spiegato in questa circostanza, l'aveva spiegato in altre. Io credo che, non credendo in Cassano, sia molto più rispettabile il fatto che non lo convochi proprio per una partita a Bari, e poi un giorno magari Cassano lo farà ricredere, ma insomma, mi pare che in questi ultimi giorni abbiamo fatto di questa modesta vicenda un caso di Stato, insomma, forse i problemi che ci travagliano, Stato compreso, sono leggermente diversi. Le brutte notizie del Sud America non arrivano mai sole, perché in attesa di sapere qualcosa in più in dettaglio sulle condizioni di Maicon, arrivano notizie non buone, anzi bruttine, sul conto di Milito. Milito ha debuttato nell'Argentina, finalmente nell'Argentina, che ha vinto 4-0, che ha giocato una grande partita con un Messi eccellente, eccetera. Però Milito ha accusato un problema al bicipite femorale destro, e in attesa di accertamenti, sembra che la situazione, in attesa di accertamenti e di particolari che ovviamente se arrivano in tempo sarà mio compito fornire, non ci sono segnali molto incoraggianti per le sue condizioni. Si è infortunato anche Lavezzi, che così almeno siamo quasi al completo. Lavezzi ha accusato una contrattura, certamente salterà la prossima partita di mercoledì con la Bolivia, ma anche lì, anche in questo caso, si sta cercando di capire quanto sia profondo il guaio, anche se le condizioni peggiori dei due sembrano quelle del centravanti del Genoa, di Diego Milito. È in linea Sandro dalla provincia di Mantova. Buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Dica. Ma io volevo soltanto intervenire per la solita, ormai diventata una questione, non so, di Stato, sembra quasi Cassano. Sì. Io, guardi, ho giocato a calcio, mi piace il calcio, però da ormai qualche anno me ne sto allontanando perché non lo trovo più, sportivamente parlando, appagante. E credo che tutti questi signori che telefonano scandalizzati del fatto che Lippi non lo voglia in nazionale si dimenticano di un piccolo particolare: la maglia azzurra dovrebbe rappresentare 60 milioni di abitanti. Io sono uno di quei 60 milioni, e a me di avere un idiota che gira sputando, facendo le corna, compagnia bella, non mi va proprio. Sì, ci sono anche gli idioti, certo, ci sono anche gli idioti che telefonano alla radio e credendo di rappresentare al meglio degli altri ascoltatori che invece la pensano diversamente. Quindi vede che il mondo è ampio, c'è spazio evidentemente per tutti e per ogni genere di idiozia o di mancanze di rispetto nei confronti altrui. Mi sembra delirante, scrive un ascoltatore, questo discorso di Trapattoni, tutto basato sulle occasioni. Sarà lesa maestà dire che forse questi sono ragionamenti superati e che a sua volta è superato Trapattoni, ma mi sembra che la firma sia di un altro ascoltatore. Non riesco a mettere insieme la firma con il messaggio perché si sono un po' sovrapposti. Ma non so se sia poi così superato, che sia un po' superato Trapattoni, sì, credo che ce ne fossimo accorti in Corea noi, no? E poi che avessimo avuto conferme successive nell'Europeo del 2004. Perlomeno questa è la mia opinione e mi sembrava di non essere così isolato in questa convinzione di allora. Però fare un ragionamento sulle occasioni che si sono avute in una partita può anche avere un senso, non... L'Irlanda l'altra sera indubbiamente è stata abbastanza sfortunata, e quando Trapattoni ricorda che Cipro mise sotto l'Italia e avrebbe meritato un ben diverso risultato, dice certamente la verità. Poi che tutto questo sia opportuno non importa, ma che tutto questo serva a qualcosa, no. È un modo evidentemente per distogliere l'attenzione, oppure è una ricostruzione di parte, ma insomma fa parte delle modalità del calcio parlato, che come sappiamo sono molto ma molto variegate. Raffaele ha chiamato da Latina, buongiorno. Buonasera, chiamo da Pisa, non da Latina. Da Pisa. Ah, da Pisa, chiedo scusa, c'era sì, evidentemente un problema di ricezione. Dica Raffaele. Chiedo un suo parere su quello che penso sul caso Cassano. Non ho pensato, potrebbe essere legata alla non convocazione alla quotazione del giocatore in questo momento dato per certo alla Juve, quindi Lippi, essendo colonna dei successi juventini, preserva un po' questa quotazione? Vorrei sentire il suo parere in merito, ascolto per radio. Raffaele, io credo che se noi ci esercitassimo in altre materie, come lo facciamo sul calcio, in dietrologia, credo che il paese andrebbe ancora peggio di com'è. Per fortuna queste masturbazioni mentali le riserviamo in massima parte al calcio. Io credere che Lippi, che tra l'altro fa storicamente, visto che lei lo ancora alla Juventus, fa parte di una Juventus completamente diversa da questa, e direi anche se non nemica, fortemente rivale, fortemente avversaria di questo, già mi sembra una tesi abbastanza curiosa, oltre che non suggestiva ma soltanto curiosa. Che poi lei attribuisca a Lippi una disonestà morale e materiale in questo caso, perché tratterebbesi evidentemente di disonestà se la mancata disonestà nel suo mestiere. Se la spiegazione della mancata convocazione fosse quella che dice lei, lo trovo abbastanza volgare come insinuazione, ma non creda di essere solo in questa interpretazione così elegante, perché io ne ho ricevute di mail e di messaggi in questi giorni sulla vicenda, di gente che arriva fino a dove è arrivato lei, ma poi si spinge oltre dicendo che dal prossimo anno, quando Cassano, che nel frattempo sarà costato meno alla Juventus proprio perché non è stato convocato in nazionale, quando sarà la Juventus poi sarà convocato dallo stesso Lippi a mani basse e in maniera ininterrotta. Quindi non le prestazioni, no, non saranno le prestazioni, è un eventuale dimostrazione di Cassano di saper giocare, di saper esibire quei suoi numeri anche ad un livello più alto, ma sarà soltanto una questione di affari e di intrallazzi privati del signor Lippi. Io non escludo che un giorno o l'altro Lippi per tutelarsi decida di usare poi magari altri metodi anziché rifugiarsi semplicemente nel silenzio. Maurizio da Milano, buongiorno. Ma buongiorno a lei, dottor Galanzini. Dica. Siamo sempre sul caso Cassano, ma nel senso che non me ne frega niente in questo senso. E allora non avremo altro di meglio, per cortesia? Sì. Volevo semplicemente dire questo: Lippi ha un suo progetto che porta avanti a prescindere dalle opinioni altrui. Ricordo a tutti un caso analogo, Beccalossi nell'82, il signor Berzotto non lo convocò, ci fu una mezza rivolta solo da parte degli interisti, come credo questa volta sia solo da parte o dei tifosi sampdoriani o di Varesi, non so, cose di questo tipo, però il signor Berzotto andò in Spagna, se non sbaglio, messo un mondiale. Giusto? Sì, giusto. Non... giusto. No, sono... Ognuno ha un suo progetto, specialmente del CT, voglio dire, discutibile o meno, vediamo cosa farà. Certo, sì. Tra l'altro lo stesso Lippi nel frattempo qualcosina nella sua carriera azzurra mi sembra abbia già dimostrato di mettere insieme, no? Quindi, ripeto, se ne parliamo da un punto di vista della simpatia, della gradevolezza, insomma, che comunque non è poi un ingrediente così secondario in quel ruolo, allora lo possiamo discutere, come a maggior ragione si discuteva Berzot, che aveva un caratteraccio anche più puntuto di quello di Lippi sotto alcuni punti di vista. Ma se vogliamo parlare di merito, potremmo fare una cosa: smetterla con questo argomento, anche perché io, quando mi sento arrivare la telefonata, dice quasi come se mi tocca parlare del caso Cassano, ma che mi mostri la ricetta medica, insomma, perché sennò cambiamo eventualmente argomento, no? Proviamo a sentire qualcos'altro di Lippi. Ecco, per esempio questo mi interessa, perché saltato di Natale si tratta di trovare un altro attaccante. Il candidato potrebbe essere questo ragazzino che gioca nel Villarreal e per il quale Lippi, e non soltanto Lippi, ha certamente un debole. Sentiamo Lippi su Giuseppe Rossi. Io non me ne sono scordato di Giuseppe Rossi. No, è che sono... Vedi, una delle cose che io ripeto frequentemente ai giocatori che vengono, anche ai vecchi, ma soprattutto ovviamente ai nuovi, è che noi diventeremo grandi, e che ripetevo anche negli anni passati, nella misura in cui noi non staremo attenti se si gioca il primo tempo, il secondo tempo, se si gioca la prima partita o la seconda, Nella misura in cui noi non faremo attenzione a queste cose, allora noi saremo capaci di diventare una buona squadra. L'importante è essere in questo gruppo, poi se uno gioca il primo tempo, il secondo, i primi minuti o gli ultimi, la prima partita o la seconda, poca importanza, l'importante è essere in questo gruppo. Roberto, la Crema si domanda, ma quando Raul non è stato convocato agli europei per la Spagna, ne avranno parlato per mesi? Sì, Roberto, adesso non so dire se per mesi o per settimane, ma ne hanno parlato un bel po'. Poi ovviamente hanno smesso di parlarne quando la Spagna ha vinto il campionato europeo, giocando oltretutto un grande calcio. Emilio, ancora Emilio, poi facciamo l'intervallo dei mercati. Emilio da Firenze, buongiorno. Grazie per l'opportunità, ma sì. Io volevo provare a dare una risposta sulla storia di Pazzini. Io sono un tifoso della Fiorentina, non fiorentino, si sente. Sì. E Prandelli non è un grande allenatore come si sta dicendo, Prandelli è un profeta che ha in mente solo gli schemi e dei giocatori, lui a parte i soliti noti, si disinteressa regolarmente. Quest'anno ha fatto cuocere la squadra non facendo mai giocare le riserve. Andando allo stadio si vedevano Pazzini e gli altri giovani, tutti di valore, perché uno è andato al Bologna, l'altro adesso fra un po' andrà via anche lui, Jovetic, si allenavano nel pre-partita con le mani in tasca perché sapevano che comunque non sarebbero stati presi in considerazione. Abbiamo bisogno di un allenatore la Trapattoni, non di un profeta che fa degli schemi nei quali deve inserire l'uomo esatto al posto esatto. Faccia mente locale alle ultimi due anni e poi vedrà che siamo vicini alla realtà. Sì Emilio, io ricordo che non fu particolarmente favorevole l'accoglienza che Firenze riservò a Trapattoni, al di là degli entusiasmi iniziali, e ricordo più perplessità allora sul conto di Trapattoni dopo non molto tempo di quante oggi non accompagnino, anche se ci sono, cominciano a insorgere le riserve sul conto di Prandelli. Torniamo in onda, e anche per tenere lontano il più possibile il caso Cassano, che poi non è nemmeno un caso, proviamo a cambiare pagina e ad arrivare a una doppia pagina pubblicata ieri dalla Stampa di Torino dal titolo Sregolati, firmata da Roberto Becantini. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. No, grazie a te, bentornato. Volevo illustrare un pochino, ma molto brevemente, agli ascoltatori il perché di questo Sregolati, e cioè massimo caso attuale è la confusione che regna in Formula 1 tra centralina, propulsori, non so nemmeno cos'è. Diffusori vari assortiti. E questa è la Formula 1. Se arriviamo al nuoto, dai, parlaci tu di body, tanto che così è divertente. No, sai, i costumi che non sono ancora come ho scritto, per adesso sono reati del corpo in attesa di diventare magari corpi del reato. Ecco, una volta, Gigi, penso che si possa dire questo, una volta la regola nel rapporto fra sport e appassionato era la mamma, certa, sì, sempre, sì. Discutibile, rompi scatole, ma certa. Adesso è diventato il papà. Sì. Qualche volta è incerto, hai capito? Per cui lo sportivo, e mi sono messo nei panni degli sportivi e degli appassionati, resta molto perplesso, molto disorientato. Sì, perché io sto leggendo per esempio i regolamenti del nuoto, i costumi non devono coprire il collo né oltrepassare spalle e caviglie, non si può indossare più di un costume, lo spessore limitato a un millimetro, la leggibilità a un newton, nell'atletica se si farà la proposta, cioè c'è la proposta che è una partenza falsa e sei fuori, non parliamo del fuorigioco che si è passati come titoli giustamente tu dalla luce all'alluce. Sì, esatto. Deve esserci, prima deve esserci luce tra difensore e attaccante per integrare il fuorigioco, adesso basta l'alluce. Basta l'alluce, quindi sai, è chiaro che ai tempi in cui Franco Baresi alzava il braccio ed era fuorigioco nel raggio di 300 km era un po' esagerato. Adesso però insomma è tutto sembra che il danaro abbia portato a un aggravio di regole, alcune assolutamente non necessarie, sì, e molte scritte male, che si prestano a tutti quei cavilli per cui gli avvocati sguazzano. Oggi come oggi, in una società professionistica di qualsiasi disciplina sportiva, l'avvocato va messo nell'organigramma. l'avvocato, il cercatore di cavilli e insomma e tutti quelli che riescono a strolgare, no, su questo l'arco genere di d'oro del Gran Premio d'Australia di ieri, sì. Magari figli dei nostri amici fra decenni potranno vidimarlo ufficialmente. Per noi ora è andata così, ma un domani viceversa, in tempi non lontani, il podio era la classifica, certo. Era veramente il verdetto. Sì, noi ci eravamo abituati al giro e al tour da questo punto di vista, no? Ormai, certo. Tristemente per un altro genere di vicende, ma sì. Mi pare però che anche lì la certezza del diritto sia molto relativa anche in materia di doping. Sì, appunto, ogni paese legifera pro domo sua. Parlavo appunto della Spagna, che chiude un occhio e mezzo all'Operazione Puerto, per esempio, sì. A differenza della Francia e dell'Italia, in cui il doping è diventato anche una questione di Stato, per fortuna, ecco. Mentre gli spagnoli chiudendo un occhio e mezzo, non possono poi evitare che qualcuno sul loro 2008 tutto d'oro, e sottolineo tutto d'oro, possa avere qualche dubbio. Allora, tutto questo riguarda, abbiamo detto, il calcio, soprattutto attraverso il fuorigioco, riguarda la Formula 1, riguarda il nuoto, riguarda l'atletica leggera, ma stiamo parlando di livelli massimi, non stiamo parlando di cose sperimentali. Riguarda il rugby, perché queste experimental low variation non hanno fatto del bene al rugby, nemmeno quella. Vabbè, sicuramente non alla nostra nazionale. La nostra nazionale non tanto, ma non soltanto alla nostra nazionale. Sì, comunque sì, anche sì. Lì hanno incrinato delle certezze regolamentari, no? Certo. Tu fai giustamente l'unica eccezione della rivoluzione riuscita nella pallavolo, cioè l'abolizione del cambio palla e l'introduzione del libero, tu dici tutto sommato hanno portato un po' di chiarezza in quella disciplina. Secondo me sì, Gigi, perché io sono d'accordo, sai. Quando ero a Bologna, in questa grande palestra che era la mia città natale negli anni 60 e 70, palestra di sport, e seguivo da vicino con mio papà le avventure della Virtus Mingante di pallavolo, ecco, sì. Non ti dico cos'erano certi spareggi con la Ruini, certi derby con la Panini di Modena, 5 sì. Set che duravano la vita di un pomeriggio, hai capito? Non un pomeriggio, la vita di un pomeriggio. Adesso trovo che con l'esilio inferto al cambio palla il volley sia più snello. Ne ho avuto l'ultima piccola, ovviamente a livello personale, non sono né un tacchino né uno scoiattolo per dire una mortale, a Pechino, dove vedo un'Italia-Brasile snella che mi piacque, hai capito? Certo. Penso certo. Ecco, che in questo caso la TV abbia servito la causa dello sport. Sì, cioè, è l'eccezione che conferma la regola, no? Perché in genere l'ha peggiorato o l'ha violentata in qualche caso, e invece in questo caso ha funzionato. Roberto, ma perché questa, al di là, tu hai già detto giustamente, TV, quattrini, tutto quello che vogliamo, ma perché però prima ancora di questo, a monte di questo, questa voglia di cambiare ad ogni costo, questa voglia di stufarsi di regole che durano da sempre e che fanno belli gli sport e le discipline, e voler cambiare e fare questi tuffi nel buio e rendere tutto così incerto? È perché tutti vogliono vincere, tutti vogliono partecipare, far partecipare il maggior numero di spettatori possibili. Anche la polemica, Gigi, non dimentichiamolo mai, paga. Sì. Perché è chiaro che Calciopoli pagò molto sul piano dei media, perché c'era di mezzo la Juve, c'era di mezzo il Milan, c'erano tante storie di prima gradita, quindi anche il negativo paga. Ecco, invece il positivo, in questo caso normale, il normale, aggettivo che per me in questo paese soprattutto sarebbe rivoluzionario, la normalità, l'essere normale, pagano di meno. E poi è chiaro che i soldi in ballo sono tanti e quindi sono a disposizione di tutti per arrivarci, ognuno insomma non bada a spese, e poi la famosa frase a ogni costo viene rispecchiata anche da queste a ogni regola. Certo, a ogni costo uguale anche ad ogni regola. In conclusione mi piacerebbe che tu ricordassi uno dei casi limite. I casi limite sono sempre quelli del calcio, anche se secondo me la Formula 1, per dirla alla loro maniera, si è messa in scia mica male adesso. Però nel calcio io credo che la vicenda Martinelli, che è una cosa dell'estate 2003, che ovviamente essendo passati più di 5 anni abbiamo rimosso, e tu invece hai puntualmente ricordato con tutto ciò che poi ne derivò, credo che valga la pena dalla tua viva voce di essere ricostruita. Sì, questo è un giocatore, un difensore del Siena che in una partita di campionato subisce una una ammonizione, era in difesa e quindi viene squalificato. Gioca nel campionato primavera, ma non nel campionato di B la domenica successiva. Poi gioca con il Catania in base a quel risultato poi è un risultato che contribuisce a farlo andare in Serie C, e si appella, allora Serie C1, adesso prima divisione, si appella e gli danno nell'ordine, mi pare, torto, ragione, torto, perché Gaucci non va al TAR e ovviamente scardina, partendo da un difensore normalissimo come il Martinelli, arriva a far sì che fra governo Berlusconi e Carraro si arriva alla Serie A a 18 squadre, poi a 20, alla Serie B a 24 e poi a 22 con ripescaggi assortiti. Fantastico. Estate, primavera 2003, Siena-Cosenza del 30 marzo, partita di Serie B, grazie a questa ammonizione, squalifica e tutto quello che hai ricordato, a distanza di 6 anni noi ci teniamo 20 squadre in A e 22 da 24 che erano in Serie B. È un doppio scandalo. È un doppio scandalo e complimenti per la memoria, Roberto. Grazie. Grazie a te, a presto, chiudiamo questo collegamento con la stampa che... qualcuno non ha apprezzato, perché per esempio un ascoltatore scrive: lei ha chiamato Beccantini per censurare gli ascoltatori che parlavano di Cassano, complimenti. Io non ho censurato nessuno. Se qualcuno ritiene davvero di avere ancora qualcosa di originale da dire sulla vicenda Cassano, è il benvenuto, dato che è una settimana che ogni volta che si aprono i microfoni sentiamo le stesse cose dall'uno o dall'altro punto di vista, evidentemente c'era bisogno di, ma d'altra parte Beccantini e le regole nello sport e non più Cassano, grazie. Insomma, questi sono, è visto la destra, ho visto la sinistra, anche perché poi non è difficilissimo, no? In chiusura spero di questa vicenda capire perché Lippi non convoca Cassano, perché sa benissimo che Cassano è un distruttore di ambienti, no? e lui starebbe si rassegnerebbe a questo se Cassano, distruggendo l'ambiente, gli facesse vincere le partite da solo. Non hanno ancora inventato i giocatori che vengono le partite da solo, e quindi lui si risparmia tutto quello di nocivo che introdurrebbe in un ambiente che evidentemente ha delle regole che Lippi è convinto Cassano non rispetterebbe. Ecco una valutazione che a proposito del rispetto si potrebbe rispettare. È il momento del ripasso di storia, come ogni giorno dopo a questo punto, in questo momento della puntata. Dunque tocca a Nicola Filippone. Sembra ieri. 30 marzo 1941. 25esima giornata di campionato. A San Siro il Milan batte per 5-0 il Bari. Il terzo gol porta la firma di Giuseppe Meazza, che diventa così il primo giocatore a tagliare il traguardo delle 200 reti in Serie A. Si fermerà a quota 216 il 16 aprile del 47, realizzando con la maglia dell'Inter un gol alla Triestina. Dopo Meazza, solo altri 4 calciatori riusciranno a superare le 200 reti in A. Si tratta di Piola, Nordal, Altafini e Roberto Baggio. Nomi di un certo spessore, nomi di una grande suggestione. Flavio Suarez sta continuando a perlustrare ogni fonte possibile per vedere di sapere qualcosina di più di Maicon, di Milito, eventualmente di Lavezzi, anzi non eventualmente, anche di Lavezzi, che però sembra quello conciato meno peggio dei tre, ma non arrivano dal Sud America al momento, anche per ragioni diffuso, non arrivano notizie appena più precise. Sono convinto, scrive Pierluigi da Genova, che se avesse una maglia a strisce verticali Cassano sarebbe già a Coverciano. Vedremo se avrà buona memoria per un mea culpa. Mea culpa lo farà Lippi, caro Pierluigi, non farò nessuna mea culpa il giorno che Lippi convocherà Cassano, perché è una cosa che riguarda Lippi, Cassano ed eventualmente lei o quelli che si riscaldano a questa maniera. A me sinceramente chi convoca in mea culpa li escludo, lo ripeto sin da ora. Domani non so se ascolterò a tempo di Cassano, scrive Andrea da Bologna, vedremo di servirle un bello diverso, Andrea, ma questa sinceramente non è male. Un altro mi scrive: ma perché non censura chi la accusa di censurare? Ed è firmato Ciro questa domanda, ma io non starei a farla così lunga, ragazzi, sono degli argomenti che evidentemente intrigano più di altri e questo sinceramente non riesco a capire perché, ma questo intriga più di altri. Giovanni ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno, Allora, caro mio, io volevo dire fare una domanda e aprire una finestra sul discorso degli oriundi. Sì. Dicendo che, insomma, io sono un inguaribile romantico nel calcio e un po' anche per questo motivo non ho molto in simpatia Lippi da quando ebbe i problemi con Baggio. Essendo io baggista, non sono lippiano. Baggista o baggiano? Perché baggiano, c'è sempre stato... Sì, vabbè, ma ci siamo capiti. Sì, esatto. E... Però io credo che, onor del vero, il povero Lippi non abbia nessuna responsabilità se il mondo nel frattempo è cambiato, perché solo pochi anni fa non c'era internet, il mondo è diventato molto più virtuale della realtà e per cui è molto più facile oggi dirsi italiani pur non essendolo che un tempo. Certo, io ho nostalgia di quando la nazionale voleva dire Burnic, Facchetti, Bulgarelli, Rivera, no? Giocatori con la maglia della nazionale cucita sulla pelle proprio. Oggi quasi nessuno, forse Buffon, non so, quasi nessuno si può dire che rappresenti quei valori lì, insomma. E, d'altronde, che dovrebbe fare Lippi? Ha un contratto, se non fa bene lo cacciano come tutti gli altri, e quindi se magari ha la possibilità di mettere in campo dei giocatori che lo fanno vincere, argentini, italiani che siano, il mondo è quello, purtroppo, dico io. Ma. Non lo so, sono anch'io dubbioso su questa cosa, però non mi sento di dare la croce addosso a un uomo solo perché... Ma io non credo però, Giovanni, che la scelta finale sarebbe sua. Oddio, abbiamo una federazione talmente debole, nonostante il 98,5% bulgaro con cui avete stato rieletto, abbiamo una federazione talmente debole, talmente impalpabile che potrebbe anche essere poi scaricata sulle spalle di Lippi, se non la responsabilità, almeno la corresponsabilità della scelta. Però io credo che, visto che lei parlava anche di storie, io credo che sarà proprio la storia ad aiutare a orientare questa scelta, perché la storia del nostro calcio insegna che all'epoca degli oriundi, e si parlava di nomi, con tutto rispetto per gli attuali, ma di nomi ben più altisonanti di quelli di oggi, ma quando la nazionale italiana fu infarcita di oriundi nella seconda metà degli anni 50, arrivarono i più grandi disastri della storia del calcio italiano. Il calcio italiano che ha vinto due mondiali prima della seconda guerra mondiale, poi anche e soprattutto per la tragedia che colpì il grande Torino nel 49, faticò molto a tornare ad un livello accettabile, e quindi malissimo il mondiale del 50 in Svezia, peggio ancora, altrettanto male ai mondiali del 58 in Svizzera, del 54 in Svizzera, nel 58 nemmeno si qualificò l'Italia, ed era quella l'epoca di una nazionale farcita da oriundi, che erano grandi giocatori, perché Schiaffino era stato campione del mondo con l'Uruguay, perché Montuori era una grande mezzala, perché lo Iacono era una bella mezzala, perché ce n'erano altri, Maschio, Angelillo, persino il grande Sivori vestì la maglia azzurra, ma tutto questo non funzionò perché erano grandi nomi, ma evidentemente non c'era il giusto assemblaggio, come direbbe un vignaiolo. Giampiero da Firenze, buongiorno. Pronto? Dica. Dottor Garantini, io vorrei intervenire sull'abusato caso Cassano, però dall'altro punto di vista. Sì. Dico questo, che il modo con cui l'establishment calcistico italiano, dai dirigenti fino ai giornalisti, sta trattando il caso Cassano, ci rende simpatico Mourinho per la sua franchezza, per la sua influenza, per non aver peli sulla lingua. Questo è il mio punto di vista e forse lo sente anche di altra gente. Va bene. Faccio un po' fatica a mettere insieme un nesso, però permite che Garasonti avrebbe risposto il Paron. Faceva in genere così quando non capiva. Alberto ha chiamato da Oristano, buongiorno. Buongiorno dottor Garantini. Dica. E dunque io dico anche la mia, naturalmente da Cagliaritano. Io non so perché Lippi, ma magari le squadre le vede giocare, però nel Cagliari ci sono buoni tre giocatori. C'è Contini, figlio di Contini, c'è un bravo giocatore veramente, uno spettacolo da vedere. Poi portiere Marchetti da convocare e poi anche Biondini. Poi gli dirò, per esempio, come mai non si fa il nome di Giovinco? Io non sono juventino, però devo dire la verità. Però Alberto, Alberto, mi scusi, ma sembra che stiamo parlando di un decerebrato, no? Quando parliamo di Lippi. No, ma mi spieghi. Lippi mi sembra un uomo molto orgoglioso, perché hanno convocare Cassano. Sì, ma se mi scusi, allora lei abbia pazienza, lei mi ha già detto Cassano, Giovinco, Marchetti, Biondini e mi sono dimenticato Conti. Conti. Allora, se un commissario tecnico che ne convoca più o meno 20, ne sbaglia 5, è un cretino o no? Mi scusi, ma c'è tempo ancora da qui al 2010, penso che se la accorgerà. C'è tempo. Sono partite di studio ancora. Quindi al momento buono. Però mi dispiace di non convocare Cassano. Guarda. Al momento buono vedrà che allora, finita la fase di studio, salterà fuori, sbucherà fuori Cassano. Le ricordo che Cassano ha già disputato due fasi finali di tornei discretamente importanti, senza cavare un ragno dal buco. Questo così come un ripasso veloce, immediato. Giuseppe da Milano e poi chiudiamo. Dica Giuseppe, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Io mi sono fatto un'idea per quanto riguarda Lippi. Sì. È inviso alla metà del popolo italiano non juventino. Sì. Cassano uguale, è antipatico alla metà degli italiani. Sì. Quindi il nemico del mio nemico e mio amico hanno trovato il sistema per attaccare Lippi via Cassano. È tutto lì, sarà semplicistico, ma è questo alla fine, perché il livore, la cattiveria con cui ci si rivolge verso un uomo, non penso neanche che sia da persone civili, ma da tifoso. E in effetti c'è una discreta differenza tra queste due tipologie, purtroppo in una larga parte di casi. Giuseppe, grazie anche a lei, grazie a Fabio Cantadoni in regia, grazie a Flavio Soardi in redazione, Giornale Radio.